i gentili e i giudei. Pur avendo da parlare di molte e altre profezie, sospenderemo, pensando che queste siano sufficienti a convincere coloro che hanno orecchie per ascoltare e intendere, ritenendo inoltre che essi possono riflettere sul fatto che noi, a differenza degli inventori di miti sui presupposti figli di Zeus, non parliamo se non possiamo dimostrare. Per quale ragione crederemmo a un uomo crocifisso che è il primogenito del Dio ingenerato e che pronuncerà il giudizio di tutto il genere umano se non avessimo trovato testimonianze pronunziate sul suo conto prima che, fattosi uomo, venisse e se non avessimo visto che così sia avverato? La desolazione della terra dei giudei, gente di ogni razza umana persuasa della dottrina dei suoi apostoli, gente che ha abbandonato gli antichi costumi secondo i quali aveva vissuto nella deviazione. La nostra stessa esperienza è la constatazione del fatto che sono più numerosi e più sinceri quelli che vengono dai gentili che quelli che provengono dai giudei e dai samaritani. Tutte le altre razze di uomini sono chiamate genti dallo spirito profetico, ma quella dei giudei e quella dei samaritani sono chiamate tribù di Israele e casa di Giacobbe. Annunzieremo le profezie fatte, come fu profetizzato che i fedeli dei gentili sarebbero stati di più di quelli dei giudei e dei samaritani. Così fu detto: gioisci, o sterile, che non partorisci, prorompi e grida, tu che non hai dolori, poiché i figli dell'abbandonata sono molti di più di quelli di colei che ha marito. Coloro che adoravano le opere delle loro mani erano tutti popoli privi del vero Dio, mentre i giudei e i samaritani, pur possedendo la parola di Dio annunciata a loro per mezzo dei profeti, e pur avendo sempre atteso il Cristo, non riconobbero che era venuto, eccetto pochi ai quali lo spirito profetico predisse per bocca di Isaia che si sarebbero salvati. Parlò per bocca loro: se il Signore non avesse lasciato a noi un seme, saremmo divenuti come Sodoma e Gomorra. Da Mosè si racconta che Sodoma e Gomorra erano città di uomini empi e che Dio le rase al suolo avendole incendiate nel fuoco e nello zolfo, e che nessuno degli abitanti di queste città fu salvato, eccetto uno straniero di stirpe caldea, il cui nome era Lot. Con lui furono salvate anche le figlie. Coloro che vogliono possono vedere tutta la loro regione deserta, bruciata, rimasta sterile. Riferiremo le parole del profeta Isaia sul fatto che coloro che venivano dai gentili erano conosciuti già da prima come i più sinceri e i più fedeli. Disse così: Israele è incirconciso nel cuore, i gentili nel prepuzio. Queste dimostrazioni possono persuadere e convincere in modo razionale coloro che desiderano la verità, che non inseguono la fama né sono schiavi delle passioni. I miti falsi e ingannatori. Coloro che insegnano i miti inventati dai poeti non danno alcuna dimostrazione ai giovani discepoli. Dimostrano anche che per potenza dei demoni malvagi sono stati raccontati a inganno e corruzione del genere umano. Avendo sentito dai profeti che Cristo era annunciato nella sua venuta e che sarebbero stati puniti nel fuoco coloro che erano empi fra gli uomini, proponevano da parte loro che molti fossero creduti figli di Zeus, pensando di poter ottenere che gli uomini considerassero le cose dette su Dio una narrazione simile a quella dei poeti. Queste cose furono narrate tra i greci e presso tutti i popoli, là dove maggiormente sentivano profeti annunciare che si sarebbe creduto al Cristo. Chiariremo che, pur ascoltando ciò che veniva detto dai profeti, non lo comprendevano bene, ma sbagliando imitavano ciò che riguarda il nostro Cristo. Il profeta Mosè, che come abbiamo detto è più antico di tutti gli scrittori, di persona, come prima dicevamo, così profetizzò: non mancherà un capo da Giuda né un condottiero dal suo fianco, finché giunga colui al quale è riservato il regno. Ed egli sarà atteso dai popoli, egli che lega alla vite il suo puledro, egli che lava la sua veste nel sangue dell'uva. I demoni Poiché udirono questi discorsi profetici, dissero che Dioniso era figlio di Zeus. Tramandarono che egli inventò la vite e introdussero il vino nei suoi misteri e insegnarono che era salito al cielo dopo essere stato smembrato. Poiché dalla profezia di Mosè non era detto in modo manifesto che colui che sarebbe venuto era figlio di Dio, né era detto se montato sul puledro avrebbe dimorato in terra o sarebbe asceso al cielo, d'altronde il nome puledro può indicare sia un puledro d'asina sia di cavallo, non sapendo se colui che era stato annunciato voleva simboleggiare la sua venuta conducendo un puledro d'asino o di cavallo, né sapendo se era figlio di Dio, come abbiamo detto, o di uomo, dissero che Bellerofonte, anch'egli sul cavallo Pegaso, ma uomo figlio di uomini, sarebbe salito al cielo. Quando poi sentirono che dall'altro profeta Isaia era annunciato che il figlio di Dio sarebbe stato partorito da una vergine e che da solo sarebbe asceso al cielo, proposero che si credesse a Perseo. Quando poi conobbero anche quello che era stato predetto nelle profezie che prima ho citato, forte come un gigante nel percorrere il cammino, parlarono di Eracle forzuto, che andava peregrinando per tutta la terra. Quando poi seppero che era stato predetto che il Cristo avrebbe curato ogni malattia e avrebbe risuscitato dei morti, presentarono Asclepio. Ma da nessuna parte, né per alcuno di coloro che erano creduti figli di Zeus, imitarono la morte in croce. Ciò non era compreso da loro, poiché, come prima abbiamo dimostrato, tutti i discorsi riguardo a questo evento furono pronunciati in modo simbolico. E questo, come predisse il profeta, è il simbolo più grande della sua forza e del suo potere, come è dimostrato dalle cose che accadono sotto lo sguardo nostro. Pensate a tutte le cose che sono nell'universo, semmai si reggano senza questa struttura o possano essere unite. Il mare non si solca se questo trofeo che si chiama vela non resta saldo sulla nave. Senza di esso la terra non si ara, gli zappatori non possono lavorare, né ugualmente gli artigiani se non hanno attrezzi secondo questo disegno. La figura dell'uomo non si distingue in nient'altro dagli esseri senza ragione se non dall'essere eretta e dall'estendere le mani e dall'avere sul viso quello che è prominente sotto la fronte si chiama naso, grazie al quale respira colui che vive e niente altro delinea se non la figura della croce. Dal profeta così fu detto: «Respiro del nostro volto è Cristo Signore». Anche i simboli che sono presso di voi mostrano la potenza di questa figura, per non parlare anche dei trofei, con i quali si verificano ovunque le vostre sfilate, mostrando con questi segni del comando e della potenza, anche se fate ciò senza rifletterci. E con questa figura innalzate le immagini dei vostri imperatori morti e nelle iscrizioni li chiamate dei. E soltanto voi, per quanto possibile, con il ragionamento e con la dimostrazione della figura, sappiamo di non essere più responsabili, anche se voi rimanete increduli. Il nostro dovere lo abbiamo compiuto. Simon Mago e Menandro di Samaria. Ma i demoni malvagi non si accontentarono di dire, prima dell'apparizione di Cristo, che esistevano i cosiddetti figli di Zeus. Anzi, dopo che egli si manifestò e venne fra gli uomini, quando conobbero che dai profeti era stato annunciato e seppero che in ogni popolo egli era creduto e aspettato, di nuovo, come avevamo già dimostrato, altri ne proposero: Simone e Menandro di Samaria, i quali, avendo poteri magici, portarono molti fuori strada e ancora li ingannano. Simone, che visse, come ho detto, nella Roma imperiale al tempo di Claudio imperatore, sbigottì a tal punto il Sacro Senato e il popolo romano che fu ritenuto Dio e fu onorato con una statua, come gli altri dei adorati da voi. Quindi al Sacro Senato e al vostro popolo noi chiediamo di predisporsi ad accogliere questa nostra richiesta, affinché, se qualcuno è stato attirato dagli insegnamenti di lui, possa sfuggire all'inganno apprendendo la verità. La statua, se volete, abbattetela pure. La morte non ci spaventa. I demoni malvagi non possono convincere che non esiste il fuoco per la punizione degli empi, allo stesso modo in cui non ebbero il potere di nascondere che Cristo era venuto, ma questo solo possono fare, che coloro che vivono contro la ragione, nutriti con passione dai cattivi costumi e amanti della fama, ci uccidano e ci odino. Costoro non solo non li odiamo, ma, come è dimostrato, avendone pietà, vogliamo persuaderli a cambiare. Non abbiamo paura della morte, riconoscendo che in ogni modo si muore e non c'è nulla di nuovo, ma le stesse cose sono nella stessa disposizione. Se il disgusto di queste assale coloro che ne partecipano, anche solo per un anno, bisogna accedere alle nostre dottrine per essere sempre liberi dalle passioni e dai bisogni. Se poi i nostri nemici credono che nulla esiste dopo la morte, ma dichiarano che i morti vanno verso l'insensibilità, ci rendono un servizio perché ci liberano dalle passioni di qua giù e dalle necessità, mentre dimostrano che essi stessi sono malvagi, misantropi e amanti della gloria. Infatti non ci tolgono di mezzo per liberarci, ma ci uccidono per privarci della vita e del piacere. Marcione del Ponto. I demoni malvagi, come abbiamo detto, tirano fuori anche Marcione del Ponto, il quale tuttora insegna a negare Dio creatore di tutte le cose del cielo e della terra e Cristo suo figlio, che fu annunciato dai profeti. Ma un altro Dio annuncia accanto al demiurgo di tutte le cose e ugualmente un altro figlio. Molti, che credono a lui come l'unica persona che conosce la verità, ci deridono senza avere alcuna dimostrazione di ciò che dicono, ma in modo irrazionale, come agnelli afferrati dal lupo, diventano preda delle dottrine degli atei e dei demoni. I cosiddetti demoni non agognano altro che allontanare gli uomini da Dio creatore e da Cristo suo primogenito. Inchiodarono e inchiodano a ciò che è terreno e fatto con le mani coloro che non sono capaci di distaccarsi dalla terra. Spingendoli fuori di nascosto, gettano nell'empietà coloro che aspirano alla contemplazione delle cose divine, a meno che non possiedano una mente saggia e una vita pura e senza passioni. Platone si è ispirato a Mosè. Affinché sappiate che dai nostri maestri, cioè dalla parola dei profeti, anche Platone ha desunto l'affermazione che Dio ha creato il cosmo plasmando la materia che era senza forma. Ascoltate ciò che precisamente è stato detto da Mosè, colui che, come si è già dimostrato, è il primo profeta e più antico degli scrittori greci. Lo spirito profetico, rivelando per mezzo di lui in che modo e da che cosa Dio al principio creò il mondo, disse così: «In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era invisibile e senza nessun ordine, e tenebra vi era sopra l'abisso, e il soffio di Dio giungeva sopra le acque. E Dio disse: sia la luce, e così avvenne». Così Platone, coloro che affermano queste cose e anche noi, abbiamo imparato che tutto l'universo, mediante la parola di Dio, ha tratto origine dai principi enunciati da Mosè. Anche voi potete esserne convinti. Anche quello che è chiamato Erebo dai poeti, sappiamo che da Mosè per primo è stato nominato. Il ragionamento che si trova nel Timeo di Platone sulla natura del figlio di Dio quando afferma: in ogni dove lo dispose secondo il segno della X. Lo pronunciò avendolo desunto ugualmente da Mosè. Infatti, nei testi di Mosè è scritto che in quel tempo, quando gli Israeliti uscirono dall'Egitto e andarono nel deserto, avanzarono contro di loro animali velenosi, vipere, aspidi e ogni razza di serpenti che uccidevano il popolo. Ma per ispirazione e grazie alla potenza che è propria di Dio, Mosè prese del bronzo e lo foggiò a croce e lo pose sul santo tabernacolo e disse al popolo: «Se volgete lo sguardo verso questo segno e credete in esso sarete salvati». Scrisse poi che dopo ciò i serpenti morirono e tramandò così che il popolo era sfuggito alla morte. Platone, avendo letto questi fatti senza comprenderne il significato, non sapendo che si trattava del segno della croce, ma pensando a una X, disse che la potenza, dopo il primo Dio, è nell'universo a forma di X. Il parlare di un terzo elemento dipende dal fatto che, come abbiamo detto prima, lesse in Mosè che lo Spirito di Dio giungeva sopra le acque. Conferisce poi il secondo posto al Verbo di Dio, che dice essere nell'universo a forma di X, e il terzo allo Spirito, che fu detto librarsi sopra le acque e afferma le terze cose al terzo. Ascoltate ora come lo Spirito profetico annunziò per bocca di Mosè che sarebbe avvenuta la conflagrazione. Disse così: precipiterà giù un fuoco che non si spegne e che inghiottirà fino al profondo dell'abisso. Dunque non siamo noi a insegnare le stesse cose degli altri, ma tutti parlano imitando le nostre affermazioni. Presso di noi queste cose si ascoltano e si imparano anche da coloro che non conoscono neppure i caratteri delle lettere, ignoranti e barbari nel parlare, ma saggi e degni di fede nella mente, alcuni anche storpi e alcuni privi di vista. Così si comprende che non per sapienza d'uomo accadono queste cose, ma si dice che avvengano per potenza di Dio.